24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Ogni tanto quando si riascolta non si butta per terra da ridere, perché a volte io mi domando, guardi, già lei ha la tragedia che ogni mattina si sveglia, si guarda allo specchio e vede la santa anche, ma poi quando si ascolta secondo me dovrebbe proprio disfarsi dalle risate. Vabbè, sa comunque cos'è? Gli uomini che mi fanno ridere sono uomini, Travaglio, lei non può avere questo privilegio. Va non bene, mi fa bene. Né ridere né godere, va bene, tutto questo non questa mi fa né ridere né godere, così Daniela Santanchea. Marco Travaglio, è ripartito il casino, il pollaio, lo schema è semplice: prendi Travaglio, prendi la Santanché, lo hanno fatto un po' tutti, oppure prendi Travaglio e prendi la Casellata, oppure prendi Travaglio e prendi che ne so un altro del PDL, li butti lì in mezzo nella gabbia, questa era la gabbia di paragone, e via via via che si alimenta il casino organizzato. Otto brutto cretino d'un Milan. Molto molto bene, potremmo chiamare questa, lo schema è questo, io e questa nostra grande ascoltatrice. Alle 6:34 minuti, buongiorno, questo è 24 mattino, è tornata Miriam Lucchetti in redazione, grande festa, champagne eccetera, e il nostro alpino Peter Bescapè sempre qua in regia. Il Parlamento apra, grazie, il nostro bar può aprire? Sì, Nicole, certo. Io non lo voglio il caffè della Ministra. Due volte. Tu continui, oggi. Continui. Hai preso anche tu i suoi favori? Grossere col caffè della Ministra. Noi non lo vogliamo dalla Ministra. Brutto cretino d'un Milan. Ecco, perché se non si fosse ben capito. Voglio subito salutare il grande Mario Adinolfi. Buongiorno. Buongiorno. Marione, eccoci qua. Mario, ti devo presentare una nuova cliente del nostro Parlamento, che è diventata già un mito per me, la capa della Padania, Aurora Lussana. Buongiorno Aurora, ben ritrovata, direttora. Direttore Catalunya. Cos'è? Sì, guarda, oggi Mario, aiutami te. Oggi ho preso in mano la Padania, ci ho messo un quarto d'ora, non sono riuscito a leggere il titolo. Adesso te lo dice in diretta. Ieri era la Diada, cioè il giorno dell'indipendenza catalana. Sì. In realtà è un giorno triste perché ricorda la sconfitta dell'assedio di Barcellona dell'11 settembre 1714. Ah. La data simbolo di tutti gli indipendentisti d'Europa. Si è visto che secchione, mamma mia. Ragazzi. Sono secchione anche perché sono stato fino a 3 giorni fa a Barcellona. Ah, ecco. Aurora, com'è il titolo della Padania? Adesso me lo leggi perché insomma. Vabbè, dai, è semplice, siamo tutti catalani. Ho scritto però, sono tot catalans. Certo. Tutta notte a chattare con gli amici catalani, quindi non sono tanto in forma. Quindi, devo imparare la lingua. Gran nottata della Lussana, a chattare con gli amici catalani. Vabbè, però non dicendo tot notte, perché sarebbe spagnolo, quindi insomma sarebbero arrabbiati. No, sì, in catalano. Deve imparare tutta la lingua. Allora, prima di iniziare le cose importanti, caro Mario Adinolfi, devi sapere che sulla Padania c'è il campionato, c'è il concorso sulla mitologia leghista, cioè devono mandare i lettori chi ricorda di più la Lega. Allora io ho visto che Oriana Fallaci com'è messa, Aurora? È sempre... No, Oriana Fallaci sorprendentemente è al momento... conciata male. C'è nonna papera che la sta superando. C'è nonna papera, Mario Adinolfi, nonna papera. Nonna papera l'ho avuto pure io, fa delle torte. Ma io credo che sia stata la vicenda siriana aver portato tutti questi voti alla nonna papera contro l'Oriana Fallaci, perché la nostra cosmogonia, nel nostro pantheon, l'era messa benissimo. Infatti. Perché tu sai le sue posizioni certo. Ma nonna papera adesso le sta facendo un mazzo così. Sì, perché adesso, sai, Oriana Fallaci sarebbe stata magari con Obama contro la Siria. Sì, sì. E poi c'è il grande, questo l'abbiamo rispolverato. Sai, Mario Adinolfi, chi ha tanti tanti punti? Attila, questo Attila, senti. Ah, come atrocità! Doppia T come terremoto e tragedia. I come ir di Dio. bella come lac di sangue, come adesso venga e ti sfascio le corna. Ecco questo, Aurora Lussani. Il facciamo di Dio. Certo, okay, certo. Okay. È messo bene, come messa bene anche, è messo bene Carlo Magno. No, non Batman, Batman. Ma che c'entra Aurora Lussana, l'icona rivista Batman? No, vince Leonida su Batman. Ah, vince Leonida. Opposto all'impero persiano, sai che noi siamo per tutti i popoli autoctoni, certo, contro gli invasori allogeni. Sì, sì, ma che c'entra Batman con la Lega? Beh, è amato il giustizialismo, comunque sai com'è. Ah, certo. Vabbè, vabbè. Allora, Mario Adinolfi, oggi leggo i giornali. Intanto, settimana scorsa ci eravamo lasciati su Giuliano Amato. E tu dici, ma non arriva mai. Oh, è ufficiale, lo scrive il Corriere della Sera, lo scrive Marzio Breda, quirinalista principe. Ieri Napolitano ha firmato il decreto. Giuliano Amato è il nuovo giudice della Corte Costituzionale. Oh, l'abbiamo piazzato. L'abbiamo piazzato. Ce l'ha solo il Corriere, quindi cumulerà una pensione, credo, come una... No, più che altro cumulerà uno stipendio, perché non è brutto quello da giudice costituzionale. Questo lo scrive il Corriere. Come la vedete voi in Padania su Giuliano Amato, Aurora? Sistema entropico dell'universo, che so che ti dica, uno che guadagna 1047 euro al giorno, è molto molto inviso ai miei lettori. Sì. Ricordi quando insomma si girava il suo nome per il Quirinale? Certo. Non ti dico le lettere di insulti, non ho potuto pubblicarle. No, adesso è proprio, addirittura. È proprio un personaggio molto molto inviso ai miei lettori, quindi facciamo questa moratoria, io non parlo di Giuliano Amato. Ecco, meglio. Allora, al di là di Giuliano Amato, Mario, come definire questo momento? Oggi è ripreso sui giornali la linea, la tregua fragile di questa telenovela giunta alla puntata numero 5392, Affare Berlusconi. La tregua è rotta e la crisi sembra dietro l'angolo, quando ieri alle 10 di sera sembrava un po' più lontana. Mario, ma la partita è finita, cioè non è che bisogna aspettare, cioè il gioco è ovvio. Il PD non può non votare la decadenza di Berlusconi, se non è sabato, se non è oggi, fra 4 giorni. E il PDL, dopo la decadenza di Berlusconi, non può non uscire dalla maggioranza. Quindi questo gioco è già chiuso. Il problema lo ha posto Letta ieri, cioè la giornata di ieri è importante, perché Letta va al Senato e dice: occhio, che l'instabilità ci costa un miliardo e mezzo. Costa. Questo è il nodo. Ora io dico a Letta, ma devo dire, lo vorrei dire più che altro a Napolitano: siamo sicuri che l'instabilità sia derivante dalla caduta di Letta, o piuttosto non è proprio la caduta di Letta e il ritorno al voto che ci consegna un paese forse finalmente stabile? Ma con questa legge elettorale, sempre lì, con questa legge elettorale. Ma se cambia legge elettorale, Mila, a parte è un mantra, ma quando la cambi, perché la nuova legge elettorale è taumaturgica? Forse diamo il premio di maggioranza sia alla Camera che al Senato uguale, almeno in modo da evitare. Ma se il uno... problema della legge elettorale è il premio di maggioranza, ma se pare giusto che il PD con lo 0,3% di voti in più del PDL c'ha 340 deputati e il PDL 110. Cioè, a me non pare democraticamente una genialata. Lo so, però è quel modo di dire: vinci di un voto e per 5 anni. È uno dei problemi, non è una cosa che bisogna. In ogni caso, no, ma come finirà? È tutto sul filo di lana. Se è game over, tra è poco. Già finita, bene Renzi, è game over. Quella partita, diciamo, che riguarda Berlusconi, senatore sì, senatore no, è già chiusa. Sì, chiaro. L'unico elemento che può accadere è che Berlusconi si dimetta. Ecco, questa può essere la novità. La vedo un po' difficile. Aurora Lussana, che ne pensi? Vabbè, ma voi leghisti sperate, insomma, siete lì che tifate per la caduta del governo. Però al di là del tifo personale politico, come finisce? Come la vedi questa vicenda di tira e molla infinito? Ma mi sembra un moscerino sulla ragnatela Berlusconi, quindi sì, in parte è vero quello che ha detto Renzi ieri sera, game over, sì, il gioco è finito, però questo matrimonio di interesse, come tutti i matrimoni di interesse, può essere molto più duraturo dei matrimoni d'amore, quindi tante debolezze insieme fanno una forza. Io mi ricordo che avevo seguito ai tempi i lavori della giunta su Previte, si è andati avanti per mesi. Sì. Quindi tecnicamente sia il dispositivo di giunta quanto approda in aula, la calendarizzazione, ma qualche mese possono anche campare. No, io 14, quindi... no, io non ce la faccio, 14 mesi. No, no, ve lo dico, non ce la faccio, 10 pagine al giorno sugli umori di Berlusconi, non ce la posso fare sui giornali. No, non ce la posso fare. No, è vero, c'è già il rigetto, guarda, no. È vero, anche noi abbiamo notato questo, che ci dicono non ci interessa, e a volte veramente riduciamo la notizia ai minimi termini, perché c'è una sorta di rigetto collettivo nei confronti. Ma che interessante questo, Maria Di Nolfi, siccome a molti non interessa, tra poco faremo ascoltare anche la grande ascoltatrice Loredana, che ieri ci ha chiamato, ha fatto un'invettiva perfetta su questo momento dell'Italia. Mario, perché se alla gente non interessa, ed è vero, è diffusa questa, perché tutti i giornali ne parlano così diffusamente? Perché non è vero che non interessa, perché ci diciamo la bugia, perché se andiamo sull'autobus, se andiamo al bar, sentiremo una sola parola se si parla di politica, di che? Berlusconi. Sì, non, ma non è che sentiremo, ma io sento di più parlare di tasse, redditometro, ma chi ne parla? Non, sai che c'è la ripresa, non lo dico. No, l'altra no. Cosa che appassiona, ieri quando hai fatto, io ieri c'ero alla gabbia, quella sì. Ieri quella cosa di Travaglio contro la Santa, che la gente gode, se sì, la guarda. Certo, ma perché ama spettacolo, certo. È chiaro, certo, ma l'italiano è ama spettacolare, il tuo pubblico che si arrabbia tanto sta qua ad ascoltarci a noi che ci accapigliamo. Certo. Se noi adesso ci mettiamo a parlare della ripresa economica, ti s'ammoscia l'ascolto immediatamente. No, vabbè, ma è chiaro che ci sono ascolti, però magari la gente non parla della ripresa economica, ma parla delle tasse, delle cose concrete. Per esempio, udite, l'avevo detto, i 400 milioni per la scuola, a parte sugli accise e sugli alcolici, sapete dove li beccheranno? Aumenta l'imposta sul registro, aumentano i bolli al primo gennaio, quindi voglio dire, mandate i figli a scuola e pagate le tasse per mandare i figli a... Ma che cialtronata è? Aurora, che cialtronata è questa? Cioè di trovare le tasse, mettere più tasse ai cittadini, così abbiamo trovato... Bisogna parlare, io capisco che lo schema erotico berlusconiano colpisca l'immaginario soprattutto dei colleghi, perché i talk, finché esiste Berlusconi, in TV esisteranno, quando non c'è più Berlusconi, secondo me finiscono anche i talk show, perché è verissimo, cioè c'è un'eccitazione quando si parla di Berlusconi, vedi lo scontro ieri sera alla gabbia, che in parte ho guardato perché sai che Paragone ha detto la Lega è finita, no? Insomma, l'altro giorno in conferenza siamo, quindi ho detto vabbè, volevi controllare il nemico. Certo, no, sai, per garantire l'ortodossia leghista contro gli eredici ma quando mai, comunque sì, no, quindi sicuramente la scuola, vedo che sarà che la moglie adesso si occupa di scuola per il Corriere della Sera, credo che è un tema che sta molto a cuore a Letta, infatti ha tolto quell'idiozia dei bonus maturità, che erano una iniquità vergognosa nei confronti degli studenti del nord, l'aveva detto il ministero, pensate che ironia, che si inventano contro i poveri studenti del nord, e le scuole che cosa voglio? C'è tante segnalazioni che nelle scuole elementari ormai sono più i rom, quindi sarà un problema dei rom e degli extracomunitari. Ne parliamo alle 8:15, abbiamo anche un leghista, oggi, mamma mia, circondato dai leghisti, è un disastro qua, devo sgomitare, scherzo ovviamente. Andiamo a sentire le informazioni sul traffico, poi c'è il momento preferito da Maria Di Nolfi, la segreteria telefonica, tra poco. 24 mattino. Io voglio solamente chiedere a voi, che siete una radio autorevole, di spingere questo governo a fare quella merda di accordo con la Svizzera di cui si è tanto parlato in campagna elettorale e che porterebbe dei gran soldi nelle casse di questo nostro paese disastrato. Sono Marco da Padova, il forcone lo vorrei utilizzare per il nostro Presidente della Repubblica. L'Italia sta andando in casino e lui si permette di fare 4 senatori a vita. Non è il momento di dare degli stipendi così alti a dei senatori a vita, che gli dia lui, Ecco, rimanno tutti a fanculo, espirato, ho contato fino a 3 e rimanno tutti a fanculo. E niente, io ho voluto provare il numero di telefono che soltanto ieri sono riuscito a prendere dalla vostra radio. Quanto prima ci sentiremo, molto molto spesso, e sono altro che arrabbiato, altro che forcone. Ma perché in Italia non si fanno 2 partiti, uno riformista e uno conservatore? Penso che ne avanzerebbero dei soldi. Un saluto e un bacio alla Saluzzi. Buongiorno, dottor Milan. Io sono stufa di questa manfrina. Se ne va o non se ne va? Mi par tanto che quel signore lì, che adesso è trincerato in quella bellissima villa, sia la classica persona: voglio, posso, comando e non obbedisco. Eccolo lì. E noi siamo nella... lasciamo perdere. Ma comunque fino al collo. Caro Milan, con tutto il rispetto chiedo a lei e a Francesco, ma chi pagherebbe il soggiorno? E le medicine si prenderebbero alle farmacie vaticane? O si pagherebbero con l'IMU che non verseranno le imprese costruttrici? Senti, non so se mi puoi fare da portavoce, sono sempre quello del baffanculo di prima. Ma me li puoi mandare tutti a fanculo? Vabbè, siamo qui con Aurora Lussana, capa della Padania, e Mario Adinolfi. Mario, vabbè, non so se sempre, vuoi fare... Sempre spettacolare. Se vuoi fare tu il portavoce di questo, lo chiami tu questo, io ti chiamo Luca da Foligno. Sì, è della mia città, quindi, esatto, io ti chiamo Luca da Foligno, se vuoi, quello dell'altra volta. Pure mezzo riconosciuto. Ah, ma c'è un amico tuo. Posso andare a bussargli a casa stamattina senza svegliarmi. Allora. Dico, ma perché perdi tempo a fare sta telefonata? No, due l'hai fatta, no, due. Prendi la solita fregnaccia inutile. Sì, sì, sì. Il concetto è quello, come si immagina i politici e pensa a quello. La verità è che la gente è peggio, questa è la verità. La gente è peggio dei politici, ma la gente è peggio. Eccolo qua. Però nessuno che però l'ha chiamato, com'è che devono dire adesso chiamano contro Mario Adinolfi? No, nessuno. Alla fine mi vogliono bene, mi tratti male, mi vogliono bene, funziona come con le donne. Allora, una notizia che mi ha colpito, per non parlare di politica, intanto no, beh, sentiamo ancora, visto che tanto uno Aurora Lussana un po' l'ha visto, va di Nolfi, già c'era nella gabbia ieri, ancora Santanché Travaglio, evviva ieri. O mi garantisci la possibilità di finire una frase, oppure io rimango qua e ascolto il monologo di questa signora, se no chiami un esorcista. E così risolviamo il problema. È un gran classico, no? Io stasera voglio abbassarmi a livello di Travaglio, ho il diritto di chiamarlo delinquente. Punto. Se la signora Santanché vuole sapere qualcosa sui giornalisti delinquenti, si rivolga in famiglia. Ma infatti, ma lei ha ragione. Si rivolga in famiglia. Ma lei ha ragione. E si sentirà raccontare. Lei ha ragione. Si sentirà. È un delinquente. Vedi che non riesco a finire una perché frase. Perché se la prende così tanto? Io so di vivere con un delinquente. Io sto cercando abituale. Di dire una c'è cosa. C'è scritto nella Non posso parlare, Aurora, non posso parlare. Non posso parlare. Non anche tu, moratoria sulla Santanché Travaglio. Moratoria, vabbè. Una notizia che mi ha colpito è questa e vorrei il vostro parere, sicuramente acuto. Allora, l'ho vista su Avvenire, ma gira un po' ovunque. Dopo Venezia, anche a Bologna c'è un consigliere di Sella che ha proposto di abolire il concetto di papà e mamma, cioè scrivere sui in nome di queste famiglie arcobaleno, no, tutte, di mettere sulle iscrizioni agli asili nido genitore 1 e genitore 2, abolire il genere papà, perché cos'è, una discriminazione evidentemente. Aurora Lussana, che ne pensi di questi? Ma così è una deriva ugualitarista, ma io sono rispettosa di tutte le minoranze, e adesso sono una minoranza e fra un po' diventeranno maggioranza, anche la Sacra Famiglia, tipo il Tondo Doni, probabilmente saranno delle immagini che verranno vietate nella nostra comunità. No, ma non ti deprimere, cioè sono cose che succedono. No, ma vinceranno loro, noi facciamo resistenza. Ma non è noi e loro. Ormai. Ma sì, ovvio. Vincerà. È una deriva giacobina, hanno vinto loro, dai. Ma loro chi? Ma non è una vittoria, vincono loro. Perché noi siamo ancora fermi a questa visione ottocentesca, reazionaria. Hanno vinto loro, hanno già vinto. No. Maria Adinolfi, basta, ha alzato le mani Aurora Lussana, ma cos'è Mario, una deriva ugualitarista? Ma è la preparazione, come si sa, a, diciamo così, l'introduzione della idea della omogenitorialità, cioè l'idea che anche gli omosessuali possano avere figli, e dunque la cancellazione del concetto di padre e madre, perché se due omosessuali hanno figli, cioè due maschi hanno figli, la mamma non c'è. Ma ho capito. È una cosa gravissima, è una cosa di un'enormità clamorosa, una cosa sbagliatissima. cioè immaginare che si tolga a un bambino, che è l'unico vero soggetto debole della catena, il diritto ad avere la madre, è una cosa senza senso, una cosa che solo in questa società ormai scompigliata possiamo considerare. Ma su questo però fa moda. Fa moda, infatti un po', fa moda, fa moda. Va bene, io devo salutare Mario Dinolfi, Radio Yes, vi ricordo alle 8, credo, così ci ruberà un po' d'ascolto, vabbè, chi se ne frega. Saluto anche Aurora Lussana, capa della Padania, direttore della Padania, di Tele Padania. E allora vi lascio con la mitica ascoltatrice Loredana, che ieri ci ha chiamato, ha riassunto in 30 secondi l'Italia. Il nostro Parlamento, la Camera che si accapiglia sulla riforma costituzionale e il Senato che si accapiglia sulla decadenza di Berlusconi dovrebbero stare su Marte, perché non hanno la più pallida idea di che cosa sia la vita dei cittadini. E quando dicono la stabilità del governo per il popolo, non sanno di quale popolo stanno parlando. Dovrebbero andare tutti una settimana a lavorare in un call center con un contratto CocoPro e il capo che gli cronometra le telefonate, e dovrebbero mandare tutti i loro figli alla scuola pubblica ad accapigliarsi con la preside perché non c'è la lavagna in classe, perché alla prima riunione ci dicono, sapete cosa ci dicono? Portate la carta igienica. Questo è il paese reale e tutto il resto, perdonatemi, sono fandonie. 1, 2, 3. Adesso, tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino, l'Italia si desta. Siamo qui, 7:19 minuti, ben arrivati se vi siete svegliati ora, come dico sempre affettuosamente, razza di debosciati, siete benvenuti comunque. Noi stiamo scarpinando, siamo in onda dalle 6:30, ma vi accogliamo con un buon caffè caldo comunque, anche per la lettura dei giornali. E vi ricordo che oggi, visto che partono le scuole in parte d'Italia, soprattutto le elementari, ma le medie, le scuole, si riprende il solito tran tran, noi vogliamo parlare alle 8:15 di queste problemi, di queste problematiche, di queste tematiche che si ripropongono ogni anno, le scuole dove c'è un'alta concentrazione di studenti stranieri, in alcuni casi anche studenti che non conoscono la lingua italiana, e i genitori italiani invece si ritrovano di fronte a questo dilemma. Ma insomma, questo è un freno per l'apprendimento pedagogico dei nostri bambini, ragazzi e ragazze, e quindi bisogna cambiare scuola, oppure questo è un segno di potersi arricchire culturalmente entrando in contatto con bambini, bambine, ragazzi e ragazze di tutte le culture e di tutte le estrazioni sociali. E di questo parleremo, perché ci sono paesi, città dove i genitori hanno deciso di ritirare i propri bimbi italiani dalle scuole dicendo cambio scuola perché lì ci sono troppi stranieri. Che ne pensate? Ne parliamo alle 8:15 con ospiti. E che dire? Buttiamoci nella lettura dei giornali? Ma sì, tuffiamoci. È giovedì 12 settembre. I titoli, il Sole 24 Ore apre sulla situazione economica in Italia, ripresa più vicina a ridurre il cuneo, questo è il titolo di prima pagina con il rapporto del Centro Studi Confindustria. Per il Corriere della Sera, gli industriali aiutare la ripresa, quindi il titolo è sulla stessa tematica. E poi la questione politica, vira il termometro politico verso nuovi venti di crisi, una tregua che sembrava dunque molto fragile. Repubblica, Berlusconi, ultimo scontro, La Stampa, Letta, l'instabilità costa miliardi. Il Fatto Quotidiano, caso Berlusconi, prendono tempo per reclutare franchi traditori. Il Messaggero, Berlusconi, non mi dimetto. Il Giornale, Berlusconi resterà in campo, lo dice Alfano. L'Unità, il PDL non sa più cosa fare. Il Secolo, Berlusconi, tregua già finita. Come vedete non si scappa, Letta, se cado crolla tutto, questo il Quotidiano Nazionale, mentre Avvenire torna sulla ripresa, il titolo di prima pagina, ripresa dietro l'angolo. Libero invece, le trappole nascoste del redditometro, questo è il titolo di prima pagina. Allora, io voglio partire da questa notizia, il solito appello è questo: tenetele ben strette quelle mani sul volante, perché io lo sospettavo. Il Sole 24 Ore lo ha scritto due giorni fa, quando si è parlato della scuola, di trovare questi sacrosanti 400 e rotti milioni per investire sulla scuola. ma il Sole 24 Ore l'aveva messo in una riga, io già le mie antenne si erano drizzate, e oggi il Sole 24 Ore lo spiega meglio. Va bene, hanno trovato questi soldi. Hanno messo le accise sugli alcolici, qualcuno può dire in nome di quel soft paternalism, no? Quel paternalismo moderato che c'è in America, tassare il vizio, gli alcolici, per favorire la scuola va anche bene per qualcuno. Ma adesso si è scoperto che l'imposta sul registro aumenta e quindi tasse sulla casa per finanziare quei 400 erotti milioni sulla scuola. Il Sole lo aveva scritto 2 giorni fa e oggi eccolo qui: scuola, risorse dalle tasse sulla casa. Ma come è possibile? Il titolo a pagina 8, Eugenio Bruno e Marco Mobili. Assunzione, borse di studio saranno coperte dall'imposta di registro, oltre che dall'accisa sugli alcolici. E allora a pagare il conto del rifinanziamento della scuola non saranno solo i consumatori di birra e vino, ma anche famiglie e imprese. Acquistare un appartamento, effettuare fusioni, scissioni, conferimenti d'azienda oppure offrire in comodato d'uso una casa dal 1 gennaio 2014 costerà di più. L'imposta di registro in misura fissa passerà infatti da 168 a 200 euro. Contemporaneamente si riaffaccerà il balzello da 50 euro sugli atti ipotecari e catastali. Eccola qui la sorpresa meno gradita per i contribuenti, scrive il Sole, forse l'aumento delle imposte di registro, questo balzello, nel mirino finiscono anche i contratti di comodato di immobili, conferimenti di beni ai soci, le operazioni di ristrutturazione aziendale come fusione e scissioni. Ma com'è possibile, viene da dire? Sempre il solito metodo. Bisogna trovare soldi in maniera sacrosanta per la scuola, tutti ad applaudire, e dopo 2 giorni si scopre che, subito si è scoperto che è aumentata l'accisa sugli alcolici, e dopo 2 giorni si scopre che aumentano anche delle imposte di registro, e quindi imposte sulla casa, tra l'altro. Eccolo qui, c'è anche un corsivo, infatti a commento di questo articolo del Sole 24 Ore, il solito vizio, sempre più imposte. Avete capito, cari italiani, come si fa? Avete capito, sì o no? Se volete sciogliere le mani dal volante, vi siete tranquillizzati, ma forse questa notizia le farà tenere comunque a qualcuno ben strette. Riguarda Giuliano Amato, una persona che spesso, insomma, ex premier, una persona molto autorevole nella storia politica italiana e che per molti è identificata come colui che ha tante pensioni, che accumula tanti soldi, ci sono state tante polemiche riguardo a Giuliano Amato. Ebbene, la notizia viene data dal Corriere della Sera e viene data per certa da Marzio Breda, che è il quirinalista del Corriere, quindi sa, è molto addentro alle cose che avvengono al Quirinale. Giuliano Amato è, per il Corriere della Sera, ormai ufficialmente il nuovo giudice, 15° giudice della Corte Costituzionale, perché sostituirà Franco Gallo, che dal 26 gennaio ha presieduto la Consulta ed è destinato a concludere il proprio mandato il prossimo 14 settembre. E quindi tra 2 giorni Napolitano firma la nomina, Amato va alla Consulta. Così titola pagina 13 il Corriere. Ora bisognerà scegliere il nuovo presidente, ma scrive Marzio Breda, Giorgio Napolitano ha deciso l'investitura al termine di un'esplorazione condotta in prima persona e dopo aver valutato i profili di un'ampia rosa di candidati, rosa che avrebbe compreso anche alcune figure di spicco come l'attuale vicepresidente del CSM Michele Vietti e i costituzionalisti Filippo Satta e Nicolò Zanon. E invece la scelta è ricaduta per il Corriere sul professor Sottile, come soprannominato Giuliano Amato. Dunque, assicura il Corriere, il Messaggero già lo dà per, come dire, ancora in pole position, mentre il Corriere si spinge oltre con questa notizia, sicuramente in esclusiva. Napolitano ha già firmato e il 15° giudice della Corte Costituzionale è Giuliano Amato, 75 anni. E trovate la notizia, pagina 13 del Corriere della Sera. Sapete che è in arrivo anche, è un arrivo un po' dilazionato nel tempo, il nuovo commissario per la spending review. Anche qui per Repubblica c'è un nome. Repubblica, pagina 11, assicura Saccomanni, il ministro dell'economia, punta su Carlo Cottarelli, che è attualmente un dirigente del Fondo Monetario Internazionale, ha un passato in Banca d'Italia, oggi è il direttore del Dipartimento per gli Affari Fiscali di Bilancio del Fondo Monetario Internazionale, quindi studio a Washington, tanto che sarà difficile attrarre Cottarelli da Washington, dove è all'apice della carriera, senza fornirgli garanzie sull'efficacia del suo mandato. Ma secondo Repubblica, lo scrive Federico Fubini, il commissario per la spending review sarebbe stato identificato in lui, Carlo Cottarelli. Oh, ieri mi era sfuggita da Repubblica, oggi il Fatto Quotidiano ci torna su. Udite, udite, cari italiani, i saggi, come ci ha confermato due giorni fa a questi microfoni Luciano Violante, che fa parte dei 35, ex 35, diventati poi 33 dopo due dimissioni, saggi, insieme a sette scribi e un uomo di raccordo, stanno per ultimare i lavori da presentare poi per le riforme al comitato dei 42 parlamentari che dovranno decidere in un iter un po' elaborato come cambiare la Costituzione italiana. Ebbene, per arrivare alle conclusioni, cosa faranno i saggi? Cosa faranno i saggi? Sabato, no, forse domenica, lunedì e martedì prossimo, ritiro in conclave, Hotel Villamare, dove, anzi, Villa Maria, 4 stelle Superior, Francavilla Mare, in provincia di Chieti. Ore 10, partenza del bus da Palazzo Chigi di domenica, per chi è di Roma. Prezzo della stanza 93 euro, prezzo scontatissimo, prezzo totale 20.000 euro e rotti, pagate voi ovviamente. Io ho i miei soliti due eurini in tasca con i quali giro e che metto subito a disposizione del governo italiano per saldare questo debito, questa fattura di Villa Maria. Eccolo qui il Fatto Quotidiano, Wanda Marra, la carta si cambia in piscina, weekend per saggi al 4 stelle, 3 giorni per arrivare alle conclusioni e proporre poi tutto al Parlamento, conto da 20.000 euro, paga il governo, ripeto, pagate voi cari ascoltatori, 3 giorni i saggi si riuniscono per deliberare in definitiva. C'è qualcuno che si è opposto, come Francesco Clementi, uno dei saggi, professore di diritto a Perugia, politicamente renziano, che ha fatto un appello via mail, secondo il Fatto Quotidiano, a dire: ma è davvero opportuno in questo momento di difficoltà mandare il messaggio agli italiani che ce ne andiamo 3 giorni in hotel per concludere i lavori? Appello che è caduto nel vuoto. D'altronde si sa, come diceva il saggio D'Onofrio sempre a questi microfoni, i saggi che fanno? Pensano, si riuniranno 3 giorni a pensare e a proporre le loro cose. 20.000 euro di conto, pagate voi. Ore 10, l'autobus, non perdetelo. Saggi, Palazzo Chigi, domenica si parte, tutto in torpedone. Andiamo alla pubblicità del meteo e rientriamo tra 5 minuti. Ed ecco Alessandro Milan che legge i giornali come nessuno al mondo sa leggerli. Eccolo qui, grazie per l'immodestia. Alle 7:35 minuti. Siamo pronti allora a leggere i giornali con le aperture che trovate, sono la politica ancora, la telenovela puntata numero 5912 della vicenda Berlusconi e soprattutto anche l'economia, la ripresa che sembra più vicino, questo almeno è certificato con i dati il Centro Studi Confindustria, il titolo lo trovate a pagina 2, ripresa in arrivo ma lenta e fragile, siamo sul Sole 24 Ore, Rossella Bocciarelli riepiloga i dati della recessione alla fine, ma non è il caso di dormire sugli allori, scrive, perché gli allori sono alquanto striminziti, la ripresa economica avrà un ritmo molto lento, soprattutto è cruciale la stabilità politica per rinsaldare la fiducia di imprese e consumatori. Queste le parole del direttore del Centro Studi Confindustria Paolazzi, che sono poi anche le parole ribadite dal presidente di Confindustria Squinzi, serve stabilità di governo. Questo è il punto che trovate poi sviluppato a pagina 3 del Sole. Il presidente di Confindustria dice: la situazione è preoccupante, servono subito 4-5 miliardi per tagliare il cuneo fiscale. Una promessa che tra l'altro ieri Letta, il Premier, ha ribadito, tagliare il costo del lavoro. in questa situazione di incertezza politica, certo non è facile, ma queste sono le cose da fare. Tra l'altro, il Corriere della Sera, che apre su questa tematica in prima pagina con il titolo Gli industriali aiutare la ripresa, mettono un interessante documento a pagina 3. È un documento del ministro alle infrastrutture e trasporti Maurizio Lupi, che di fatto con una lettera ha chiesto al suo collega, colui che tiene la cassa, il ministro dell'economia Saccomanni, di ripristinare fondi per 2,3 miliardi per opere pubbliche. Grandi opere, Lupi scrive al tesoro, ecco i cantieri necessari alla ripresa. Pagina 3 del Corriere, Lorenzo Salvia: caro ministro, ti chiedo di rispettare l'impegno che il governo ha assunto nei confronti del Dicastero delle Infrastrutture e Trasporti, ripristinando le risorse temporaneamente tolte dal bilancio del mio ministero per il finanziamento di codeste opere. Un totale di 2,3 miliardi centrali sono alcune opere come la rete ferroviaria, il Mose, la Salerno-Reggio Calabria. Insomma, riaprire questi cantieri o sviluppare questi cantieri, queste opere pubbliche, per un totale di 2,341 miliardi di euro. Questo è ciò che Lupi chiede al collega di governo Saccomanni, ministro dell'economia. Insomma, in questa situazione di crisi, come detto, di incertezza, di ripresa che si vede, si intravede secondo i dati del Centro Studi Confindustria, è chiaro che stride moltissimo la questione della politica. Oggi nella puntata della telenovela berlusconiana, decadenza sì, decadenza no, perché sarà come dice Renzi, che ha detto è game over la vicenda Berlusconi, ma in realtà sui giornali ci sono 10-15 pagine anche oggi per capire, sondare, intercettare gli umori di Silvio Berlusconi, che è rinchiuso ad Arcore, e intercettare gli sviluppi di una possibile crisi politica. Oggi i giornali virano un pochino più sul pessimismo nel termometro della possibile crisi rispetto a ieri. Berlusconi, nuovo scontro sui tempi, i tempi all'interno della giunta, così titola Il Sole 24 Ore, pagina 9. C'è anche un articolo di Barbara Fiammeri, sempre della stessa pagina, che racconta di un cavaliere sempre più in trincea ad Arcore e di una decisione ormai imminente. Quale sia questa decisione ovviamente non è dato a sapere. Anche il giornale punta su questa, come dire, decisione imminente, giorni decisivi. Udite, udite, giorni decisivi, non per la riforma elettorale, non per l'abolizione delle province, ma giorni decisivi affinché Berlusconi possa scegliere qualcosa. Anche perché l'effetto sbadiglio ora incombe. Finalmente c'è qualcuno che inizia a scriverlo. Ugo Magri, che è sempre molto attento e molto informato su quello che succede nell'entourage di Silvio Berlusconi, sulla Stampa oggi racconta, a pagina 4, in un'interessante retroscena, che l'effetto sbadiglio sta cominciando anche a profilarsi all'interno dei familiari e comunque della cerchia più ristretta di Silvio Berlusconi. Come nella favola di Esopo, scrive Ugo Magri, evocare tutti i santi giorni la crisi, senza poi mai metterla in atto, determina a lunga l'effetto sbadiglio, la sensazione, insomma, che neppure nelle minacce Silvio vada preso sul serio. Ed ecco allora che tutti coloro che dentro ad Arcore si chiedono, scrive Ugo Magri, oggi come lo troveremo? Lo troveremo su? Lo troveremo giù? Lo troveremo un po' più giù rispetto a ieri? Un po' più su? Un po' più di buon umore? Un po' meno di buon umore? E insomma ci si interroga su questo. Tutti comunque cominciano a dirgli: oh, qualcosa devi decidere, altrimenti si fa quell'effetto sbadiglio che, insomma, ogni giorno sembriamo appesi agli umori del capo. E i figli, secondo Ugo Magri, hanno sottoposto a Berlusconi, quindi al padre, la domanda di grazia. I rampolli del cavaliere pare abbiano sottoposto al padre una richiesta di clemenza già scritta e solo da firmare, scrive la Stampa. Lui per il momento si sarebbe rifiutato. Ieri Barbara Berlusconi, intercettata dall'ANSA fuori dalla sede del Milan, ha detto: mio padre non è un delinquente. Poche parole, ma per difendere la storia imprenditoriale e politica di Silvio Berlusconi. Che succederà comunque non si sa, sempre in retroscena per Repubblica, pagina 3, l'ultima carta del cavaliere con il Quirinale. Tanto ormai, avrebbe detto Berlusconi, so che la finestra elettorale per votare in autunno si è chiusa. e quindi bisogna tener duro e dilazionare i tempi, avrebbe detto ai suoi, soprattutto in giunta per le autorizzazioni. E anche Repubblica dice Berlusconi ha negato la firma a una domanda di grazia che i figli gli hanno già sottoposto. Anche per Francesco Verderami, Berlusconi ha fatto un super vertice con gli avvocati, i figli pensano alle carte per la grazia, ma lui non vuole sentire da questo punto di vista e si fida dei sondaggi e studia i sondaggi, ma qualcosa dovrà prima o poi succedere. Intanto per la stampa si contano i possibili, spunta addirittura una lista dei possibili franchi traditori, li chiama così per esempio il Fatto Quotidiano, cioè coloro che in caso di crisi di governo Letta potrebbero sostenere un Letta bis. Beh, attenzione, per esempio il deputato del Movimento 5 Stelle Tancredi Turco rilascia questa intervista al Secolo XIX, intervistato da Ilario Lombardo, dice: io, deputato grillino, vi dico, proponiamo l'alleanza al PD. Non c'è niente di strano per Tancredi Turco essere contemporaneamente in accordo e in disaccordo con Beppe Grillo. Il comico ha ragione, secondo il deputato, quando dice fuori delinquenti dal Parlamento, ma ha torto quando ordina di tenersi alla larga dal PD. Perché aspettare che sia il PDL a staccare la spina? Io esorto tutti a fare noi una proposta al PD per un governo di scopo su 2-3 punti precisi da realizzare subito, la legge elettorale e altre cose necessarie al Paese. Dopodiché avversari come prima. Insomma, in maniera esplicita questo deputato del Movimento 5 Stelle dice: propongo un'alleanza al PD. Comunque la politica si interroga su tutte queste cose e intanto cosa succede? Una cosa che ormai scade quasi nel ridicolo è una cosa in una storia invece molto più drammatica che vi voglio raccontare. Quella che cade nel ridicolo, e qui vi rinvito, se avete tolto le mani, di rimetterle sul volante, ma c'è più da ridere che ormai da arrabbiarsi. Sapete la vicenda del finanziamento pubblico ai partiti, la riforma che il premier Letta ha detto entro l'autunno, in autunno va fatta, in autunno? Slitta alla Camera. Alberto Custodero su Repubblica: soldi ai partiti, la riforma slitta ancora. Slitta ancora. Slitta ancora. Come lo chiamava Giannelli nella vignetta, Enrico Slitta, il premier. La storia più drammatica però che mi preme raccontare, lo fa il Quotidiano Nazionale, io ho l'edizione Il Giorno, quella del Nord, è questa: che mentre la politica si scervella su crisi di governo sì, crisi di governo no, le cose pratiche della vita comune, le tragedie anche che possono comportare alcune situazioni di difficoltà economica, quelle invece sono messe in pagina 15-20 dei giornali o scritte in un trafiletto. Sentite qui, l'ufficiale giudiziario alla porta, artigiano fa harakiri per lo sfratto, muore dissanguato, aveva 1.200 euro di affitti arretrati. È successo a Falconara, dove l'ufficiale giudiziario e i vigili urbani hanno trovato in un lago di sangue un artigiano di 63 anni che, quando ha visto che si profilavano queste persone per chiedergli lo sfratto, si è inferto una serie di coltellate. 63 anni, non aveva pagato gli ultimi affitti al proprietario dell'appartamento, una somma totale di 1.200 euro. L'ufficiale giudiziario alla porta e lui si è inferto queste coltellate, una delle quali è stata fatale per la troppa perdita di sangue. Ecco qui. E intanto ci occupiamo di telenovele. Alessandro Milan, il panettiere dell'informazione. Allora, alle 7:47 minuti, noi ci occuperemo oggi alle 8:15 di scuola e soprattutto, visto che riprendono le scuole in molte parti d'Italia oggi, e soprattutto di questa vicenda di cronaca che ogni anno si ripropone, per la verità, e che dà lo spunto anche a vari articoli, per esempio oggi su Repubblica l'approfondimento di 3 pagine, lotta di classe multietnica, viaggio nelle scuole della discordia, le scuole dove molti genitori ritirano i propri figli perché ci sono troppi stranieri, che dice lui, il razzismo non c'è. c'entra, sia chiaro, ma dicono loro rallentano l'apprendimento pedagogico dei bambini italiani. Che ne pensate? Perché è un tema che riguarda molte persone, si ritrovano in questa situazione, quel cattivo buonismo sulle classi multietniche. Questo per esempio è il commento, una intera pagina del Giornale di Valeria Braghera: alcuni genitori ritirano i loro piccoli da scuola per la massiccia presenza di stranieri, non è razzismo, è soltanto buonsenso. Questo per il Giornale. Oppure anche per Libero: tanti stranieri in classe sono un guaio. Repubblica invece fa un viaggio in queste scuole, c'è anche l'intervista alla primaria di Via Dolci a Milano, una scuola che è considerata dalla responsabile un modello di integrazione. Da noi nessuno ritira i figli e abbiamo alunni di 25 paesi, perché essere diversi qui è considerato un valore. Insomma, comunque la pensiate? Eccoci qua, ne parliamo anche con le vostre telefonate all'800 24 00 24 dalle 8:15. Un'altra vicenda che trovate sviluppata sui giornali è una vicenda di cui ci siamo occupati anche noi in passato, vale a dire il metodo Stamina, o meglio bisognerebbe dire il presunto metodo Stamina, quello che secondo l'uso di cellule staminali mesenchimali, secondo il suo ideatore Vannoni, curerebbe o tratterebbe molte malattie rarissime, soprattutto per i bambini. Ebbene, sapete che era stato deliberato, con tanto di stanziamento di 3 milioni di euro, una sperimentazione di questo metodo, ma in realtà c'è già un freno abbastanza netto. Metodo Stamina al capolinea, così titola Il Sole 24 Ore: vincono le ragioni della scienza, il metodo Stamina non ha consistenza scientifica. Il comitato per la sperimentazione nominato dal ministro alla salute Lorenzin e presieduto da Fabrizio Leari, che è il presidente dell'istituto di sanità, ha trasmesso già parere negativo sul protocollo consegnato all'inizio d'agosto da Davide Vannoni, che è il docente di psicologia della comunicazione col pallino della ricerca. La notizia di questa bocciatura del trattamento è trapelata ieri in serata, un no che ha già visto Davide Vannoni reagire in maniera stizzita. Certo, ha detto, me lo aspettavo, era evidente che il comitato non fosse imparziale, il 70% dei suoi membri si era espresso già contro il metodo prima ancora di essere nominato, e annuncia il ricorso al TAR. Ma certo, immancabile in Italia un ricorso al TAR. Comunque, anche sul Corriere, il metodo Stamina bocciato dagli esperti del ministero, nessuna consistenza scientifica, questo è il titolo. Resta da capire che succederà. Questi 3 milioni stanziati, che si fa? Si va avanti con la sperimentazione? Non si fa? Si fa? Boh, questo è poco chiarito, almeno al momento, sui giornali. Magari nei prossimi giorni si saprà qualcosa di più. Oh, ci sono molti articoli che vogliono esaminare la straordinarietà dei gesti, della comunicazione del Papa Francesco. Ieri addirittura, sapete, in maniera abbastanza epocale ha preso carta e penna, firmandosi semplicemente Francesco, ha mandato una lettera a Eugenio Scalfari pubblicata su Repubblica. E Andrea Tornielli, vaticanista della Stampa, si interroga: le telefonate, le lettere, il senso del Papa per la comunicazione. Ma oggi stravince su questo Libero, guardate cosa fa una pagina per raccontare il regalo che un prete veronese, Don Renzo Zocca, ha fatto al Papa. Una vecchia Renault 4, che viene anche immortalata in foto, totalmente bianca, sulla quale giura questo sacerdote veronese: il Papa si mette alla guida in Vaticano sfrecciando senza cintura e contromano con le guardie svizzere che lo rincorrono. Si fermi, Santo Padre! E lui con la Renault 4, ma dai, ma questa scena è già mitica di per sé. Io e Francesco in Renault 4 contromano, sentite cosa racconta questo prete intervistato da Libero. Gli ho fatto questo regalo, un giorno vado a trovarlo in Vaticano, lui si mette alla guida e dice: dai, andiamo qui, l'auto sulla vecchia Renault, 300.000 km all'attivo, due adesivi della squadra di calcio dell'Hellas Verona sui finestrini, a guidare il Santo Padre. A un certo punto Don Renzo: ma no, ma di qua non si può passare. Lui: ma sì, non passa mai nessuno. E il Papa in bocca, contromano e senza cinture, una via in Vaticano con le guardie: si fermi, Santo Padre. E vabbè, siamo veramente alla genialità della comunicazione, lo trovate su Libero. Ma siamo al premio finale. La carta costa, l'articolo più inutile, oggi vince Gianluca Grossi sul Giornale. Pensate un po', un'intera pagina su casa e abiti come una volta. Ora è trendy vivere di nostalgia. Ma certo, chi non ha un sofà degli anni 30 in casa? Chi non ha un mobile degli anni 50? E racconta la storia, per un'intera pagina, di tre persone. Per esempio il signor John Collingwood, che non ha mai cambiato un mobile di casa sua a 79 anni perché dice: voglio rimanere ancorato al passato e invecchiare con la mia casa. Oppure John Massey, che ha scelto di vivere in una casa arredata secondo i costumi anni 50 e quindi con tanto di foto si attorna di questo tipo di arredamento. Ma chi se ne frega? Ma facciano quello che gli pare. E se invece volete vivere in una casa ipermoderna, benissimo. E scrive il Giornale: non si capisce cosa stimoli che questo piacere a vivere ancorato al passato. Ma noi non capiamo che cosa stimoli scrivere un articolo su questa cosa. E quindi ricordatevi, cari amici del Giornale, che la carta costa. Il Giornale Radio. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. Eccoci qui, cari ascoltatori, care ascoltatrici, le 8 e 17 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. E allora, oggi vogliamo parlare di scuola. Inizia la scuola per moltissimi studenti, studentesse, oggi, in bocca al lupo, è una bella esperienza, è anche un po' una rottura di balle per qualcuno, però insomma è così, tocca, è il dovere che si ripropone ogni volta di questi mesi, nel mese di settembre. E come dire, quando riprende la scuola ogni anno spuntano come funghi alcune storie di cronaca che ci raccontano di genitori bambine, bambini italiani preoccupati perché nelle classi delle loro figlie e dei loro figli ci sono troppi studenti stranieri. Precisiamo subito, non c'entra e non vogliamo neanche discutere dal punto di vista del possibile razzismo, ma dal punto di vista di una questione pratica, cioè in una classe con troppi stranieri si rischia di frenare l'apprendimento di tutti, fanno sapere questi genitori, che arrivano in alcuni casi a ritirare i propri figli dalla scuola. L'ultimo caso, oggi ne parla Repubblica, fa tre pagine di viaggio in tutte queste scuole contestate da questo punto di vista. L'ultimo caso a Landiona, un piccolo comune in provincia di Novara, dove 12 famiglie hanno ritirato i figli dalla scuola elementare perché il motivo: c'erano troppi figli sinti. E quindi dicono l'apprendimento è rallentato. Che ne pensate? È giusto? Fanno bene? Voi condividete questa idea? Oppure l'altra teoria è quella, per esempio racconta Repubblica, una scuola di Milano abbastanza celebre per un'altra concentrazione di stranieri che sono sui banchi, invece no, l'apprendimento è un modo importante per sviluppare l'integrazione tra diverse culture fin da bambini, e quindi bisognerebbe, come dire, avere più coraggio da questo punto di vista, fermo restando che c'è un 30% di tetto che dovrebbe essere rispettato in Italia, di quote, cioè non più del 30% di bambini stranieri all'interno delle classi. Comunque, che ne pensate? Oggi mi interessa il vostro parere, magari state portando i vostri bimbi a scuola con le vostre esperienze, chiamateci all'800 24 0024. Intanto voglio salutare l'onorevole Khalid Shawki, che ritorna con noi, deputato del PD e responsabile immigrazione del partito. Buongiorno onorevole, eccoci qua. Buongiorno. Saluto anche il senatore della Lega Gianmarco Centinaio. Buongiorno senatore e benvenuto. Buongiorno a voi. Che ne pensa lei, senatore Centinaio? Condivide il timore di questi genitori che in alcuni casi, li avrà letti sui giornali, in questi giorni dicono: beh no, io il mio figlio lo ritiro perché troppi stranieri rallentano l'apprendimento. Ma condividerlo totalmente non lo so, so soltanto che in questo momento in Italia c'è una legge che prevede che ci debba essere una quota del 30% e penso, come questi genitori, perché io alcuni li ho anche sentiti, che questa legge deve essere fatta rispettare. Vogliamo far rispettare la legge in Italia, diciamo che in Italia ci deve essere più organizzazione, deve essere un paese dove le leggi devono essere rispettate, a cominciare dal caso Berlusconi, e quindi dobbiamo far rispettare anche queste leggi, che ci piacciono oppure no. Ci sono delle situazioni, per esempio, ricordiamo una cifra: in Italia ci sono 7.878.000 studenti circa, ben 736.000 dei quali sono stranieri. Ora poi bisogna capire se sono stranieri, però sono nati in Italia, e quindi qui c'è la cosiddetta polemica anche sullo Ius Soli, per cui se sono nati in Italia vuol dire che conoscono perfettamente la lingua, per esempio. Ecco, lei è disposto a fare una distinzione di questo tipo, senatore? Perché magari, sa, se si accelerasse quella procedura di cui tanto si è discusso e per la quale voi siete anche molto critici col ministro Kyenge, in realtà molti di questi bambini sono stranieri di fatto, ma sono italianissimi a cominciare dalla lingua. In questo caso non frenerebbero alcun apprendimento. Ma in parte anche in questo caso è vero, è altrettanto vero che in Italia ci sono stranieri, che figli di stranieri che abitano nel nostro paese, ma che la lingua italiana non la conoscono, e quindi allora a questo punto dobbiamo pensare, questo qui può essere la proposta del ministro Carrozza, capire un attimo se questi bambini che entrano nelle nostre scuole, i ragazzi che entrano nelle nostre scuole, sanno almeno l'italiano. Quindi a quel punto potremmo anche in quel caso ragionare se rallentano o meno l'apprendimento. Dai, rallentano o meno l'apprendimento. Si potrebbe proporre un esame, per esempio, un esame preventivo di lingua? Sì, come fanno in tantissimi altri stati. Io pongo all'attenzione, alla sua attenzione, all'attenzione sua radio ascoltatori, subito un caso, che è il caso per esempio che è successo, che ho trovato a Milano, di una famiglia di origine musulmana. Il proprio figlio l'hanno mandato alla scuola cattolica privata perché almeno non c'erano persone che potevano rallentare l'apprendimento, e questo ragazzo sono anni che frequenta la scuola privata cattolica, rimane musulmano ed è veramente bravo a scuola, quindi... Questo caso. Onorevole Sciauchi, faccio a lei la stessa domanda preliminare. Capisce quei genitori che dicono, per esempio, è successo in provincia di Bergamo, è successo adesso in provincia di Novara? No, noi li ritiriamo questi bambini, perché altrimenti tutto questo frena il loro apprendimento a scuola. Ma non lo capisco, perché oggi si fa la gara per iscrivere i propri figli nelle scuole internazionali, e affinché appunto fin da piccoli crescono in un contesto multiculturale, imparino più lingue, e quindi probabilmente è una paura non giustificata. È chiaro che in alcuni casi si fa fatica per una scuola magari stare dietro ai ragazzi che sono arrivati in età già adulta, e quindi lì è chiaro che la scuola deve sostenere i ragazzi più in ritardo, e quindi garantire per tutti il pari andamento. Però da lì a generalizzare, oggi per esempio nelle scuole dell'infanzia l'80% dei bambini cosiddetti stranieri sono nati in Italia, e la legge Gelmini quel 30% noi l'abbiamo criticato, perché c'è un grosso equivoco, perché non si capisce se deve essere nell'interesse dei bambini cosiddetti stranieri o della tutela, tra virgolette, delle classi italiane. Ma forse di tutti, cioè nella tutela di tutti, di loro stessi, perché altrimenti rischiano, come dire, lei se la immagina una classe con 20 bambini, ognuno di una nazionalità diversa, quindi, e magari che non sanno neanche bene l'italiano, cioè un maestro, una maestra, che cosa può fare quando entra in una classe? Io per esperienza anche personale, cioè i bambini apprendono molto in fretta, il problema è la formazione degli insegnanti, la loro capacità di coinvolgimento, eccetera. Quindi probabilmente a volte è controproducente addirittura pensare già in età, parlo della scuola primaria, delle scuole elementari, dividere i bambini già da piccoli, anzi può essere molto più negativo. E è chiaro che qui stiamo parlando appunto di un equivoco, perché tra i cosiddetti bambini stranieri ormai più dell'80% per la scuola dell'infanzia, più della metà nella scuola elementare sono nati in Italia, quindi questo ragionamento non è più giustificato. Va finalmente detto che la nostra scuola sarà destinata sempre più ad avere bambini di origini diverse, e questo è il futuro dell'Italia per una serie di dati, quindi va spiegato molte volte ai genitori che non c'è da aver paura della diversità, ma anzi dimostrare che in tante scuole che io stesso ho visitato, da Torino a Milano ad altre, anche qui a Roma, se c'è una direzione intelligente, eccetera, queste scuole possono diventare addirittura scuole di eccellenza. Che ne pensa e però quindi... quando il senatore della Lega Centinaio propone, visto che ci sono molti stranieri, come dice lei, addirittura l'80% ci dice questa cifra nelle scuole materne che sono nati in realtà in Italia e che quindi conoscono molto presumibilmente la lingua, allora a questo punto facciamo una scrematura dal punto di vista di un test pre-scolastico. Uno è straniero ma sa l'italiano, quindi non rallenta di granché l'apprendimento, allora va bene, non rientra magari in quella quota del 30%, gli altri no. Un bel test. Ma io penso sarebbe una delle cose più gravi, già proponiamo i test per gli adulti e sono comunque in alcuni casi insomma offrono grandi dubbi anche di non discriminazione eccetera. No, penso sarebbe sbagliata, perché la scuola ha il dovere semmai di insegnare un italiano corretto e vale per tutti questo, quindi non vedo come si possa pensare a fare i test a dei bimbi e appunto tra l'altro abbiamo un problema anche di disponibilità di posti nelle scuole dell'infanzia eccetera, quindi figuriamoci fare dei test. Il problema vero è che oggi a causa di quella legge del 30%. Oggi abbiamo dei ragazzi che sono costretti sono spostati in altri quartieri, cioè è una geografia anche degli spostamenti, sì, che è veramente ridicola. Quindi potenziamo la scuola, rafforziamo gli insegnanti di sostegno eccetera, e soprattutto spieghiamo a insegnanti e genitori che è una grande opportunità, cioè oggi... Ma la diversità come la diversità nel senso anche linguistica e culturale come opportunità. Senatore Centinaio, non so se su questo tema, come dire, ha orecchie sensibili lei. Effettivamente l'onorevole Sciauchi ci ripropone, si ritorna lì, se si accelerasse, la traduco io, quel processo di rendere italiani quelli che sono nati in Italia anche da genitori stranieri, magari molti di questi problemi si sarebbero eliminati alla radice, o no, senatore? Che ne pensa? Stiamo parlando di bambini, stiamo parlando di apprendimento, stiamo parlando di scuola, non stiamo parlando di carta d'identità. Certo, però siccome le quote del 30%, se uno considera straniero uno che parla perfettamente l'italiano, per esempio figlio di, che ne so, un cinese, che parla però perfettamente italiano, se invece ci fosse il cosiddetto, per esempio, ius soli o l'accelerazione per garantirgli la nazionalità, non rientrerebbe in quel 30% di stranieri. Non rientrerebbe in quel 30%, ma ci sarebbe poi il problema, come ho detto prima, di tutta quella parte di bambini o ragazzi che comunque arrivano da stati stranieri che l'italiano non lo parlano. Io penso a tanti ragazzini o tanti bambini in via Paolo Sarpi a Milano, oppure in quei quartieri dove ci sono grosse concentrazioni di cittadini che comunque sono cittadini extracomunitari. Ripeto, riportando l'esempio di Paolo Sarpi, ci sono bambini in Paolo Sarpi che non sanno l'italiano, come ci sono bambini in Paolo Sarpi che invece l'italiano lo sanno e quasi parlano dialetto milanese. Ma questo certamente, ma non crede, oggi per esempio il giornale propone questa storia, a Prato, dove sapete c'è una grande concentrazione, anche l'economia si basa molto sui cinesi, a Prato c'è un istituto tecnico dove 18 alunni su 20 sono cinesi, la dirigente ovviamente dice così si autoghettizzano in qualche modo, però forse senatore Centinaio, non è questo un caso estremo, voglio dire, è un caso limite, non è che in realtà poi la scuola italiana è fotografata da queste realtà. No, assolutamente, la scuola italiana è tutt'altro, infatti qui stiamo parlando di casi, anche perché io in questi giorni ho chiesto un po' anche ad alcuni insegnanti, quindi la media è comunque sicuramente non è una media di classi con cittadini extracomunitari in maggior numero rispetto agli italiani, sono comunque ci sono tantissime realtà dove c'è una integrazione, dove non ci sono problemi e dove i problemi di apprendimento sono minimi, perché nel momento in cui in una classe di 20-25 studenti ce n'è uno o due che comunque magari parlano poco l'italiano o hanno un percorso formativo diverso rispetto a quello della scuola italiana, si riesce anche a sopperire. diversa appunto è la situazione di casi limite come quelli che stiamo vedendo in questo momento. E questo sono certo. Veramente l'eccezione. Tra l'altro forse ci collegheremo tra pochi minuti dopo la pubblicità e il meteo anche con uno dei genitori che in un comune in provincia di Bergamo ha deciso, visto che c'erano su 21 alunni 14 stranieri e 7 italiani, di ritirare il proprio figlio per portarlo in un'altra scuola, perché dice troppi stranieri rallentano questo apprendimento. 24 mattino. Allora siamo qui alle 8:35 minuti. La domanda che vi poniamo, cari ascoltatori, è questa: li capite i genitori che laddove c'è un'alta concentrazione di bambini e bambine straniere nelle loro scuole ritirano i propri figli italiani perché dicono troppi stranieri rallentano l'apprendimento, oppure siete dalla parte di chi pensa che la multiculturalità, l'esperienza variegata sia una fonte di arricchimento fin da bambini per i vostri figli? 800 24 00 24, ne discutiamo con l'onorevole Khalid Shawki del Partito Democratico e con il senatore della Lega Gianmarco Centinaio. Tra l'altro arrivano anche molti messaggi al 349-238-6666. Chi dice, onorevole Shawki, molti dicono bisogna invece fare questo test, in Francia viene fatto. C'è chi invece sottolinea, beh, ma insomma, due ascoltatori, uno Marco, negli anni 60 arrivavano i bambini dal sud e parlavano solo il dialetto, eppure non si è mai posto il problema di fare test di esame di lingua italiana. Comunque sentiamo anche qualche ascoltatore. Paolo da Treviso, buongiorno Paolo. Buongiorno dottor Milan. Buongiorno dottor Milan. Eccoci. Io voglio portare la mia testimonianza estremamente positiva su una scuola primaria, la primaria del 1° maggio di Treviso, dove ho due figli, Riccardo che frequenta la quinta, ha iniziato sì. La quinta, e Valentina la seconda. In questa scuola ci sono la maggioranza dei bambini sono di origine straniera, diciamo Africa piuttosto che Est Europa, piuttosto che Bangladesh, e l'esperienza è stata estremamente positiva perché grazie alle insegnanti sia dell'una che dell'altra classe che delle altre classi c'è stata un'integrazione incredibilmente positiva. Ma parlano italiano? Le chiedo, percentualmente parlano italiano questi bambini oppure sono quindi sono parlano molto... italiano, e ci sono stati anche dei casi dove hanno iniziato a scuola diciamo a classi iniziate, quindi arrivavano con una conoscenza dell'italiano un pochino più ridotta. E tra l'altro le prove Invalsi, abbastanza famose su queste sì. Nelle scuole primarie, hanno avuto dei risultati estremamente positivi nella provincia e nel Veneto, classificandosi tra le prime, se non la primissima scuola. Vabbè, insomma, quindi lei, Paolo, diciamo, porta un'esperienza personale per i suoi figli certamente positiva di integrazione. La ringrazio, vorrei andare a Torino da Andrea, buongiorno. Dottor Milan, buongiorno, una semplice considerazione. Premetto che sono assolutamente d'accordo con quei genitori che in quella scuola hanno deciso di ritirare i figli perché si sono accorti che le classi erano state fatte con una percentuale piuttosto alta di sinti. Ripeto e sottolineo sì. Sinti. Sì. Quindi qua non è un problema di integrazione tra chi è italiano o non è italiano, perché ad esempio nella scuola dove va mia figlia c'è un'alta percentuale di rumeni e nordafricani, ma sono persone che si sono integrate perfettamente e si stanno integrando perfettamente. Cioè, lei sta dicendo i sinti no. I sinti sono degli zingari che non hanno nessuna intenzione, nessuna voglia di integrarsi. Però non dica zingari come se fosse un insulto. No, ma non è, guardi, sono cose, io penso che tutti sanno che cosa combinano gli zingari in giro e non mi risulta che abbiano voglia di integrarsi. Farò anche la parte del razzista, io per carità non voglio mica la sua opinione, siamo aperti alle opinioni di tutti, ecco, non c'è tanto, poi gli ascoltatori ascoltano. È proprio quello il problema, proprio quello. Cioè, il problema è proprio che sono sinti, non è dove ci fossero stati... Fossero stati rumeni o nordafricani, sì, come succede in tante classi, non penso che questi genitori sarebbero stati così pazzi o stressati da dover però dire. Però guardi che Andrea lei la pone come una questione appunto a questo punto razzista, cioè, e che non è la giustificazione invece che è stata allora, data, cioè nessuno ha detto di loro lo facciamo perché sono sinti, se fossero stati rumeni non ci sarebbe stato problema, certo, anche perché sarebbe un po' più grave la cosa rispetto certo. Comunque insomma questa è la sua idea, grazie Andrea. Vorrei andare a Milano da Omar, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno a lei, il suo interlocutore. Sì, io trovo questa, non la trovo condivisibile questa analisi di, che i stranieri rallentano il percorso di studi, per almeno per la mia esperienza, ho due bambini, uno va quest'anno alla quarta e l'altra, almeno le pagelle non mi fanno dimostrare questo, che la bimba il primo anno ha avuto il primo quadrimestre 9 di media e il secondo quadrimestre 10 e l'altra non scende mai sotto le 8 di media in tutti quei tre anni. Mm. Se noi parliamo, e sono nati in Italia, se noi parliamo di bambini che vengono qui in età avanzata, che magari questo è un problema della politica. Ecco, ma appunto il problema è questo, Omar. Il programma, ma questo è un problema. Certo, ma lei ci ha già detto. Cosa, in Inghilterra, sì. 15 anni fa, io mi ricordo 15 anni fa in Inghilterra, se parlate del lavoro in casa, se, quella è la media, quella è la regola per non dare tanti lavori ai bambini in classe. Se parlate nel Parlamento. I compiti a casa, 15 anni fa mi ricordo, ero l'inchiesta e parlato nel Parlamento inglese dei compiti a casa, quella è la media giusta per non esagerare, per non fare tante cose ai bambini. Sì. Però lei è Omar, scusi, ci ha detto Omar che i suoi figli sono nati in Italia, quindi dall'inizio hanno appreso l'italiano e questo, è, diciamo, sono stranieri in questo momento i suoi figli? Sono stranieri. Non ho mai chiesto la cittadinanza io e per la legge italiana ancora. Sono stranieri. Sta come la legge la conosce meglio di lei. Però sanno l'italiano, quindi non, è ovvio che non ostacolano nessun tipo di apprendimento. Ma per i bambini che vengono in età avanzata è un programma che deve fare il governo, che deve fare la politica, di farli fare un corso avanzato di lingua italiana prima di mandarli a scuola. Ma questo infatti è il tema sul quale si dibatte, grazie Omar. Io condivido, sono straniero ma condivido. Lei è per l'esame, per esempio, perché, ecco, senatore Centinaio, lei è per l'esame, ma ha sentito l'onorevole Sciauchi, per esempio, l'ha definito una delle cose più gravi che si potrebbe fare, quello di un esame in qualche modo preventivo per mandarli a scuola. Senatore Centinaio, secondo lei? Mi spiace per lui, io rimango e noi rimaniamo di quest'idea, nel senso che nel momento in cui si vuole fare un discorso di programmi scolastici, si vuole far sì che i figli di cittadini extracomunitari entrino appieno nella scuola italiana senza rallentare quello che è il programma di studi e magari anche senza quelle quote, quindi a quel punto togliamole le quote nel momento in cui c'è un esame di questo tipo, allora purtroppo l'esame ci vuole, perché la situazione in Italia è questa: ci sono ragazzi, ma anche ragazzi italiani, forse anche ragazzi italiani che non hanno voglia di studiare, però nella maggior parte dei casi con gli insegnanti con cui ho avuto a che fare, e le assicuro non sono leghisti, perché io cerco sempre di parlare con chi la pensa in un modo diverso da me, con queste persone, con questi insegnanti, proprio il live motive che è uscito sempre fuori è stato questo: abbiamo delle difficoltà a portare avanti il programma. Questo a discapito anche di quello che dice in questo momento il ministro Carrozza, che continua a dire che gli studenti stranieri sono un'opportunità. Io non so lei che opportunità vede il ministro. Io penso che in questo momento, in cui si sta facendo anche un dibattito di questo tipo, dire che gli studenti stranieri sono un'opportunità sia un razzismo al contrario nei confronti degli studenti italiani. Allora, razzismo al contrario. Onorevole Sciauchi, tre considerazioni. Razzismo al contrario, quindi commenti questo. La questione che molti ascoltatori dicono, in realtà questa storia del test è un qualcosa di positivo. E poi ha sentito anche l'ascoltatore di prima dire, ma lì il problema è che sono sinti, fossero stati di qualsiasi altra nazionalità, bene, ma il problema è che sono zingari. Sì, il problema è sempre qualcuno meno di noi, no? Quindi per questa volta si salvano gli rumeni, che di solito sono, no? la top ten degli immigrati da evitare, quindi vediamo anche come stanno il mondo. Io voglio dire semplicemente che il problema sono molte volte gli adulti, non sono i bambini. I bambini, io ho lavorato anche nelle scuole, i bambini si aiutano tra di loro e imparano molto più in fretta stando insieme che separati. Questo è vero, non c'è dubbio che un bambino non sappia neanche cosa sia la Romania, la Spagna, a meno a 5-6 anni, cioè capisce quindi, che sono, su questo non c'è dubbio. Insomma, l'avvio della scuola, che è il momento più bello per un bambino, l'inizio del suo senso di partecipazione, di appartenenza, già pensare di fare dei test differenziati penso sia davvero un passo indietro nella storia, che veramente insomma ci chiude gli occhi di fronte a quello che sono problemi che si superano davvero con buon senso. Però, soprattutto, ma perché avete il test? Mi scusi. Sono problemi soprattutto degli adulti che tentano, secondo me c'è anche un'ideologia in alcuni casi, sì, non in tutti, di in qualche modo voler preservare una purezza di una scuola come la era 20 anni fa. Non è, la storia va avanti e noi dobbiamo cercare di rafforzare e potenziare la nostra scuola, ma è inevitabile che la scuola del futuro, e già quella di oggi, sarà una scuola dove, dove i bambini davvero, insomma, sono, sì, di più colori, più paesi. Ma questo già è così, poi, insomma, però poi... perché lei, onorevole, vede quasi una sorta di ghettizzazione in un eventuale test per capire se e quante persone all'interno di un gruppo conoscono già i rudimenti della lingua italiana? Ma se lo facciamo per tutti io sono d'accordo, perché ci sono anche tanti bambini che per mille motivi hanno difficoltà di apprendimento, insomma, o perché appunto stanno davanti alla TV tutto il giorno, perché hanno i genitori che non li hanno fin da piccoli, insomma, avviato un dialogo, hanno altri tipi di questioni. Quindi se si fa un test per tutti, si ragiona, ovviamente insieme alla comunità scientifica, e si può pensare, ma farlo solo per i figli di immigrati, i figli di Roma che sono nati a Milano, perché devono fare un test di italiano solo perché non hanno il passaporto italiano? La trovo una discriminazione. Allora facciamolo per tutti gli italiani. Facciamolo per tutti, io non sarei d'accordo, ma se è una tesi giustificata dal punto di vista scientifico, facciamolo per tutti. Eccoci qui alle 8:46 minuti, ancora ascoltatori, sono tantissimi i temi della scuola, è un tema veramente che tocca tutti noi inevitabilmente. Marianna dalla provincia di Roma, buongiorno. Buongiorno. Eccoci, dica. Allora, guardi, io sono un'insegnante di scuola primaria e le dico che vengo da una formazione interculturale specifica, avendo fatto scienze dell'educazione. Il problema non è somministrare o non somministrare un test ad un bambino straniero, perché comunque noi somministriamo quotidianamente schede che ci consentono di capire il livello di conoscenza di ciascun alunno, straniero o non. Cioè, noi non esiste che sia italiano o non italiano, in funzione se ha genitori italiani oppure no, perché per noi il bambino nato in Italia, cresciuto in Italia, che parla italiano, è italiano, certo, conosce le nostre tradizioni. Cioè, dal punto di vista pedagogico, dell'apprendimento, però mi interessa il suo punto di vista, lei è un insegnante, lei capisce i genitori che dicono troppi stranieri, soprattutto laddove non parlano italiano, frenano l'apprendimento, è così? Rallentano in alcuni momenti, sì, però lo rallenta anche il bambino iperattivo, lo rallenta anche il bambino con handicap, lo rallenta anche il bambino maleducato, semplicemente maleducato. Allora, se per ognuna di queste categorie noi dovessimo realizzare una quantità percentuale per cui accettare quel bambino, le nostre classi dovrebbero essere trasformate, dovrebbero diventare non più per età ma per età mentale, ok? Questo non è assolutamente auspicabile. Noi dobbiamo fare queste classi, innanzitutto cominciamo a dare la cittadinanza a chi già per statuto dovrebbe averla, per fattore di nascita, e questo già abbassa le percentuali di stranieri, un pochino la riflessione che stavate facendo prima, per cui il 30% forse neanche lo tocchiamo. Guardi che se la sente il senatore leghista, adesso dice eccolo lì, Marianna vuol far passare con questa problematica, così si ovvia questa problematica, vi piazza, senatore Centinaio, l'idea di dire ecco, ovviamo tutto mettendolo ius soli, uno nasce in Italia, è italiano, o lo ius soli moderato, diciamo acceleriamo invece che 10 anni, mettiamola 5 anni, e così, senatore Centinaio, abbiamo eliminato il problema, capisce questo? No, ma non vuole essere assolutamente no, questo, ma chiaro. Oggettivamente io ho avuto dei bambini extracomunitari che nati in Italia che parlavano italiano meglio degli italiani, no? Io mi porrei un altro problema, se posso. È stato inventato adesso dalle nuove riforme i BES, che sono i bisogni educativi speciali, nei quali non dobbiamo inserire gli alunni stranieri con difficoltà linguistica e i bambini con un ritardo mentale non sufficiente ad avere il sostegno, i bambini con DSA, i bambini iperattivi. Inseriamo tutta una serie di problematiche differenti per natura, per tipo di lavoro, in questi BES. Ci togliamo il problema del sostegno e continuiamo a tagliare sulle figure d'aiuto alla scuola. Questa è la proposta, insomma, proponga al ministro Carrozza, cara Maria. Marianna. No, la ringrazio intanto per la sua esperienza preziosa anche da insegnante. Senatore Centinaio, ha sentito, guardate che insistere su questo punto poi vi fregano e vi dicono risolviamola così, dando la cittadinanza più rapidamente. Scherzo, è una battuta, sì, ovviamente. Sì, lo so. Però effettivamente Marianna ha posto questo problema, non si capisce perché si pone la quota sulla questione nazionalità e non si pone per tutta quelle categorie di persone, anche il bambino semplicemente iperattivo o maleducato che frena l'apprendimento. Ma su questo io sono totalmente d'accordo, nel senso che poi apriremmo a quel punto un ulteriore capitolo all'interno del mondo scuola, ma io ricordo, facciamo sempre, si ragiona sempre anche un po' per esperienze personali, sì. Io ricordo per esempio quando andavo alle elementari, scuola statale normale anni 70, perché ho 42 anni, dove nella lezione di matematica venivano divisi gli studenti, i bambini, tra chi la matematica era un pochettino più portato e chi lo era meno. Nessuno dei bambini si è mai sentito offeso, nessuno dei genitori, visto che io facevo parte di quella parte di bambini che la matematica la sapeva fare un po' meno, i miei genitori non si sono mai sentiti offesi, non hanno mai ritenuto di avere un figlio magari poco normale, e grazie a quel metodo di apprendimento io la matematica sono riuscito ad impararla tale quale quella di mio compagno. Sai che siamo coetanei, ma a me questa cosa non è mai successa. Nella mia scuola era così, la lezione di matematica era divisa tra chi era bravo e chi no. Allora, era una scuola strana, totale ma strana. E lei vorrebbe fare un po' la stessa cosa, cioè o con il test preventivo, o comunque cioè mettere in modo di dire quelli un po' più bravi, quelli un po' meno bravi, non c'è nessun tipo di ghettizzazione o discriminazione no, in questo. Magari soltanto nel discorso della parte nella scuola primaria dove diciamo nella fase dell'apprendimento dell'italiano, ecco. Stiamo ragionando solamente sull'apprendimento italiano. No, ma è chiaro. Onorevole Sciauchi, questa immagino che sia una versione ancora più esacerbata della questione del test che lei disdegnerà, no? Ma io non so se poi durante i corsi di matematica poi quelli più deboli sono diventati bravi quanto gli altri o hanno mantenuto sempre un livello più basso, perché poi l'altra tesi è che stando con i più bravi uno magari è più facile che diventi bravo grazie all'esempio, soprattutto quando parliamo di bambini. Io confermo ancora che se uno andasse oggi nelle scuole, in particolare le scuole primarie, poi chiaro se uno arriva a 14 anni in Italia ha bisogno sicuramente di un percorso, magari si possono fare i corsi estivi, il pomeriggio. Ci sono tante formule per sostenere i ragazzi e i bambini nella scuola, non per forza bisogna distinguerli nel momento più importante della vita di un adolescente o di un bambino. E se uno andasse oggi nella scuola primaria e elementare capirebbe che davvero i problemi sono nostri, perché tra questi ragazzi e molte volte sono dei talenti, imparano in fretta e sono addirittura i primi della classe questi bambini, quindi si ha un'idea un po' troppo, secondo me schematica, di un tema che invece in realtà vede la stragrande maggioranza di questi bambini e ragazzi che studiano alla pari, che imparano in fretta e addirittura ci mettono molto impegno. C'è un problema ovviamente dei compiti a casa, come si diceva prima, delle famiglie che non hanno molte volte gli strumenti linguistici per sostenere i bambini a casa, e questo è una discussione che sicuramente va risolta, ma ritengo che la scuola pubblica ha il dovere e rappresenta in qualche modo la nostra società, in particolare quella del futuro, e quindi deve attrezzarsi la scuola, deve attrezzarsi lo Stato. Per questo che noi diciamo che la legge sulla cittadinanza non è una cosa ideologica o solo per fare un favore agli immigrati, ma perché ci aiuta a rispondere a quello che è anche a queste problematiche che si ripongono e più sarà. E ogni anno. Oggi rischiamo, vogliamo fare di tutti i test ai bambini nati in Italia, domani chissà cosa ci inventeremo. No, fermiamoci all'oggi. Ringrazio l'onorevole Khalid Sciauchi del Partito Democratico e il senatore Gianmarco Centinaio della Lega. Tutto è riascoltabile ovviamente sul nostro sito radio24.it. E come dire, con Miriam Lucchetti, e Elisabetta Fusconi, Alessandro Longoni in redazione, il nostro mitico Peter Bescapè, che tra l'altro prima diceva io con i bombardini che prendo da Alpino o adesso con le accise sull'alcol favorisco gli investimenti sulla scuola, quindi il grande Peter Bescapè, il più grande sostenitore fiscale della scuola. Vi salutiamo facendovi ascoltare quello che è diventato già il nostro vessillo, lo sfogo ieri della nostra mitica ascoltatrice Loredana. E allora a domani alle 6:30.